di Spagna, copiato la Sardegna, K. Io Sassari, Sassari Sardegna. Bene, bene, qua in Sardegna, Sardegna, Italia, Sassari, avanti. Copiado amigo, Santiago es de 9. Y el radio es 5, muy bueno, fuerte y claro amigo. Y QR a Sergio Tonsayer, Sergio Tonsayer, la City es Guadalajara, 50 km de Madrid, amigo, QSL. Capa, amigo de Madrid, qui c'è 920 Radio 5. 920 Radio 5. Vertical, Sagra, 104, como las antiguas, y avanti, pero fabricación española, Sagra, amigo, 9 metros 60 de los 90, Sergio Tonsayer. Gracias, amigo, por contestar y un saludo, llegas muy fuerte, muy, muy fuerte, 9 plus, Capa, qui forte chiaro, qui io. Antenna Ringo, Ringo, Ringo Lem. Ciao Antonio. Uè, ciao a te, buonasera. Però con radiales o solo de media onda, o è 5 ottavos, amigo? No, 5 ottavo, no, un quarto d'onda. Ok, avanti Tino, ci sei? Pues bueno, amigo, pues yo quiero probar una Ringo porque... Con la Ringo, amigo, va a haber que probarla. Tengo ahí también un cuarto de onda de antiguamente, pues de la marca Alan, desde España Alan. O no, era... No, desde no era España, bueno, de Midland o lo que era Alan. Me gustaría probar la Ringo. Justicia, amigo, ¿cuántos vatios tienes en antena? Lem, lem, questa, lem. Atento, germano, germano, si escucha dal nord della Sardegna, nord della Sardegna, avanti amico, qua operador Tango India, November Oscar, ok, Tino. Non mi sente. Sì, sì, llegáis los dos, però tenía otro compañero de la Cerdeña. Ahí que me decía que estaba con una Ringo y no sé si no, ya no le rescato. No, amico, io ho una 5 ottavi, una Mantova 1 sul tetto, una Mantova 1, ok? Española, Sagra 104. Bene, bene. Che cosa stai utilizzando di radio? E poi mi dai anche il tuo nominativo. Sì, hace algo raro la emisora nel radio. Sì, sì, lo he notato, amigo. Un Antu, vai avanti, dai. E cosa vuoi, Rugani, beh? E dove il cane c'è? Prego, prego, io non ti tracco. Che apparecchio stava usando? Ciao Germano, ciao ciao mio amico. Dai 7351, Saluti dalla Sardegna, città di Sassari, ok? Mi dai un rapporto, per favore, un rapporto radio? Un pochito rauco, è la modulación, ok? 9 plus, 9 plus, 9 más 10, 9 más 20, amigo, fuertísimo. Buena preparación. Te digo, buen domingo, amigo, y gracias por contestar. Habitual por España es el 2735, 5 de gasolina, el mundo loco de la España. Attenzione Spagna, Spagna copiate la Sardegna, K! Hola, hola, ciao ciao! Hola, chico! Loro salutano, salutano lì, hola! Antonio, com'era la costa? Bella? Bella, bella. Siamo andati lì, era cosa? Porto Rotondo. Ho visto. Non era la giornata ideale, però dai, non c'era né troppo caldo né troppo freddo. Andava bene, eh. Come ti sono con Tamoglio? C'era un mare lì, è in Costa Smeralda, più o meno. Eri in Costa Smeralda, non più o meno. È bello quel posto, eh. Lo so, lo conosco benissimo, io ci andavo spesso lì. Era Olbia, abita mia sorella, abita. Siamo andati a trovarla, ci abbiamo fatto un bel giro. Siamo andati a Golfaranci, siamo andati lì. Bellissimo, va. Tu pensa che a Golfaranci abbiamo fatto un lavoro di un vascone e siamo stati, credo, 2 o 3 mesi, se non ricordo, proprio lì a Golfaranci. Ma poi vabbè, Olbia ha fatto altri lavori, sì, so, cioè, la conosco la zona. Ci lavora mio cognato a Golfaranci, da lì al ristorante, la gente di mare. Bene. Bel posto, eh. Andare. No, noi abbiamo fatto una cosa qua in campagna, dai. Lui lo fa ancora digerendo. Guarda, ho voglia di, cioè, voglia di girare, mi piace così a me. Mi piace così. Va bene. È tanto cosa, invece i tattini a rubare lampado, perché a me quelle cose non mi piacciono. Piglio prendo la mia signora, piglio e faccio, e partiamo tutte e due. Così vuole tu, così allora, a me non vedi cose nuove e tutte cose. Appa. A me mi piace così. Adesso l'altra tappa sarà da un altro posto. Dove vorresti andare? Adesso vabbè, faccio un viaggetto di Alaghero, così. Poi voglio andare, quest'estate voglio andare a Costa Re. Bello. A San Teodoro si è mai andato? Non è lontano lo San Teodoro, è bello San Teodoro, eh. San Teodoro, poi in agosto di Rugì, lì è bello freddo. E anche lì andiamo. Ce ne sono tanti posti belli, e Ciccio Dulce a Gozza. Mi sentivo stesso, ti? Siamo un po' di potenza. Mi sentivo stesso, ti? Sì, se non c'è... se non c'è altra preparazione, sì. Ho passato un po' di potenza, se no, no, che non andrà più bene. No, io invece non è, così almeno. Non è necessario, no. Ecco qua. Ah, maroglioso, mi preparo qualche cosa, vado a fame. Oh, abbiamo mangiato, ma gioco appena rientrato. Quindi. Andare. No, io ti dico, la mezza bugiata non do fastidio, capito? Come? Ho detto che la metto, la metto la potenza, così almeno do fastidio. vabbè, no, io non lascio spento chi tu giù c'ha, grazie. No, lo tengo così. No, solo il fine settimana lo utilizzo questo, ma giusto così. Vorrei riavvivarlo un pochino. Sì, sì, no, già va bene. Senta, con poca potenza quanto sono? Che cosa tu? Arrivo con poca potenza. Con questa? Con questa che hai tu adesso? Con... all'incirca sono 6 watt così. Quasi Santiago, tu hai. Se si apre la propagazione non ti sento più. E io riaccendo. Ok, dai, io vado giù a mangiarmi qualcosa, ci sentiamo. E gli altri vai, vai, tranquillo, non c'è problema. Alle prossime, ciao, buona carica. Ciao, ciao a te. Avanti in break, buonasera. Raggio, buonasera, Luca Alberto. Bene Alberto, Fortuni, 7351, Santiago 9, Radio 5, qua da queste parti, la mia posizione è Sardegna, città di Sassari, io mi chiamo Tino. Stazione 1 Romeo Papasera 66, nonché Lupo Alberto, invece la M cittadina, ok. Bene Alberto, bellissima missione, complimenti, niente, io sono qua, ero in compagnia con un amico, adesso però è andato a fare carica, quindi non te lo posso più passare. Nella mia zona ormai qua sono tutti a fare carica, vabbè, tranne me che io ho caricato troppo a pranzo, quindi evitiamo anche la sera. Io invece sto col mal di denti, vorrei caricare ma non posso, ok. Bene, bene, bene. Mi puoi far cambiare lo segnale Alberto, giusto perché sto provando un amplificatore, quindi voglio vedere un valvolare, un vecchio valvolare, un Galaxy 1000, quindi lo sto pilotando con una TR-5005, niente, sto andando con una 5 ottavi, una verticale 5 ottavi, una Mato Valvolo. Adesso acceso il mio, così mi puoi ricambiare anche te la cortesia gentilmente. Certo, certo, a voglia, a voglia. Hai lo stesso segnale, vabbè. quasi 9.15 modulati 9.20, una bellissima emissione, ti ripeto, in un momento ti sei abbassato perché hai dato un piccolo ingresso, comunque poi ha ripreso, va benissimo. Sono abbassato io la potenza dell'apparato, perché giustamente devi pilotare con una potenza inferiore, giustamente, almeno questo lineare che è un RM non si può pilotare con più di 5 watt purtroppo, e quindi bisogna stare ogni volta a regolare. Dai. Con questo, con il mio preside del Lincoln, mi trovo una static 757M6. È una 5 ottavi su terrazza, ok? Vagino per te, caro, non ho segnato il tuo nominativo, se me lo dai cortesemente, almeno posso tenerti nei miei ricordi, ok? Capo, non c'è problema, Tino Muscolo qua dalla città di Sassari. Caffarola, Tino Muscolo Sassari. Bellissimo, davvero. Scusami, intanto scrivevo, è la mia prima volta, dopo tanti e tanti anni, l'avevo collegata tanti anni fa dalla barra mobile, ti parlo degli anni 80, e questa è la mia prima volta di nuovo, guarda, per giunta in FM, dai, anzi in M siamo, scusami, dai, troppo bello, veramente, dai. Va bene, caro, dai, Tino, ti abbraccio, comunque il mio nome personale è Willy, è scritto W-I-L-L-Y, ripeto, Whisky India, Lima Yankee. Io sono vivo qua nel Salento, ma sono di origine dell'Alto Adige, però ormai vivo da sempre qua nel Salento, quindi sono felicemente adottato salentino, ok? E ripeto, comunque è bellissimo fare una chiacchierata così quasi in diretta, dai, con un tuo segnale di 9.20, porca miseria, guarda, è fantastico, giuro, propagazione stupenda oggi, davvero. Di nuovo per te, Pino, dai. Bene. Niente, dai, ti saluto, ti lascio andare. C'è stato un break, non so se c'è ancora, se vuoi aspettare 2 secondi lo facciamo entrare, così vediamo un po' se riesci a ascoltarlo. Avanti il break. Io da Sassari, mi ascolti? Sì, diciamo sì, un pochino, un po', perché c'è stata una piccola sovrannulazione. Avanti, chi è? Mi ascolti, Pino? Sull'Italia? Sì, è registrato, lo so, sì. Sì, Massimo da Termoli, Molise. Massimo, buonasera. Ti ascolto, ma un po' disturbato, c'è una piccola interferenza, un po' di accavallamenti, ma riesco a tenerti fuori. 7351, anche a te, Massimo. Ecco, sono entrato, te. Dino, che bella la Sardegna, spero tanto di ritornarci prima o poi. Sì, vabbè, dai. Speriamo che ci facciano uscire, perché qua è una zona un po' così, un po' dappertutto, però diciamo che se danno il via alle entrate, l'importante è che ci siano i controlli e poi tutti siamo contenti. Avanti, Massimo. Buonasera, per il momento ti mando un abbraccio fortissimo dal Salento. Vista di persona e spero a voi una volta riuscire a venirci, ok? Io ti abbraccio forte e ci sentiamo le prossimine, spero, dai, spero di riascoltarti nuovamente sempre con questa bellissima propagazione e col tuo 9.20 fantastico, ok? Dai, ci sentiamo le prossimine, quindi non muscolo, dai, da Sassari, ok? Stai bene, ci sentiamo le prossime. Registrato, sì, ciao, ci sentiamo, tutti e tre, salutoni dalla tua corona familiare anche, dai, alle prossimine. Antonio, ci sei? Eccomi qua, salutoni anche da parte mia, da Antonio da Sassari. Break. Avanti il break, avanti. Sì, buonasera dal sud Italia, mi ascoltate, operatore Marco. Ciao Marco, voglia anche tu, sei fortissimo, non c'è problema, ciao Marco, in compagnia di Antonio Bombolo e io che sono Tino. Avanti Marco. E a me che non mi avete fatto entrare. 9.20 qui nel sud Italia, provincia Scanzano Ionico, fortissimo, complimenti, buonasera. Buonasera Marco, ti rilancio anche un altro amico che è entrato ora, che mi ha dato lui via. Avanti Gianni, per Marco. E dai, buonasera a tutti, ciao Marco. Dalla città di Sassari, che ti supercordializza, avanti di nuovo. Sì, buonasera anche all'amico, ti ascolto anche a te, ti ascolto un po' più basso, ma ti ascolto. Buonasera. Ciao, salutore anche ad Antonio da Sassari, buonasera. Buonasera Antonio da Sassari, ti ascolto 9.30 qui, complimenti. Kappa, complimenti anche a te che mi arrivi 9.20 a Radio 5. Ok, io sono con la potenza dell'apparato, Icom 7.2, avanti in antenna, sono immobile io. Kappa, dai. Cavolo, qua si sta arrivando fortissimo. Avanti Tino. Sì Marco, dai, arrivi fortissimo anche tu, e la propagazione ci sta accompagnando. Bene, bene, dai, io rilancio a Gianni e faccio un attimino di quel Rix, che ho qualcosina qua da fare qua a casa, in verticale. Quindi niente, ti rilancio il mic, Marco, un abbraccio, 7351, a te e al tuo QR familiare, e spero le prossimine a riascoltarci. Salutami a tuo giorno, ok, a te Marco. Ok ragazzi, allora vi saluto a tutti, prima che la propagazione ci abbandoni, piacere di avervi ascoltato tutti quanti, arrivate tutti quanti molto molto forte, complimenti a tutti. Vi saluto, vi auguro una buona serata, mi sposto per fare qualche altro collegamento. Buona serata a tutti, ciao ragazzi. Ciao Marco, dai, se mi dai un controllo te ne sono grato. Vorrei sapere come sta arrivando adesso. 9.30, Sud Italia, Scanzano Ionico, provincia di Matera, 9.30, complimenti. Cappa, ti ringrazio Marco, ti auguro una buona serata, ti passo Antonio Bomba, la batti anche tu. Cappa, qua in Sardegna, anche da me arrivi fortissimo. Tu sei 9.25. La radio è Super 5, in questo passaggio ci è arrivato una schioppettata, Sì, quasi 9.30, 9.25 e oltre. Ok, ti passo anche 9.20 in questo momento, non so problema. Siete veramente tutti forti, bella propagazione stasera, Cappa Marco, dai. Di nuovo ti salutiamo, avanti Antonio. Kappa, dai, ti salutiamo anche noi, adesso un po' sei sparito, sì. Comunque già riusciamo sempre a tirarti fuori. Ok Marco, vai Tino. Così, buon pende. Ma cosa, anche tu non sei buon pende? No, io no. attenzione, canale 10. C'è qualcuno, centro nord, sud Sardegna, che vuol chiamare avanti. Attenzione, attenzione, copiate Antonio, Antonio da Sassari, dalla Sardegna, che sta chiamando Brecco Brecco. Capa, avanti, avanti! Capa Roger Antonio, sono dalla provincia di Taranto. Capa, capa, la provincia di Taranto, sì, ti sento, ti sento, come mi senti tu lì, a Taranto? Capa, capa Roger. Gappa gappa, ogni tanto tu sparisci appena appena, ogni tanto, però già riesco a sentirti lo stesso, ti mando l'amico Gianni, avanti Gianni. Gappa, buonasera l'amico di Taranto, l'operatore Gianni Doppio Rum della città di Sassari che ti super cordializza, avanti. Siamo della provincia di Taranto, paese di Sassari. Qui siamo tutti e due di Sassari, tutti e due di Sassari. Rivieni avanti, rivieni avanti. Gappa, gappa, noi siamo qua in Sardegna, a Sassari. Gappa, avanti già. Ehi, ehi, dai, io lo sento molto basso, non so come nasco di quanto, però a volte ne sparisce. Niente, ci ha fatto piacere fare questo collegamento, speriamo di sentirci in modi migliori perché la situazione adesso è un po' critica e sta arrivando basso basso. Già, mi pare che... Nada, non lo sento più. Neanche io, lo sto sentendo basso, basso, basso, ma non riesco più a sentirlo. Neanche io, capisco che sta parlando, ma non si capiscono le parole. Comunque, se l'amico ci sente, si consideri di salutare con un forte abbraccio dalla Sardegna. Hola, attento Antonio. Adesso sì, avanti. Comunque si augurano un sentito della prima volta, qui sta modulando il Giuseppe K5 del resto della provincia di Taranto. Ok K5 dai, contraccambiamo i saluti, sia io che Antonio ti salutiamo, una buona serata e grazie per il QSO. Non c'è busta. Ehi capo, esce. Attenzione sul canale 10, c'è qualcuno che vuole entrare, c'è il doppio rullo dalla Sardegna. Avanti, avanti. Capo Lecce che ti ascolto, l'ho fatto. Che ti super copializza, avanti Lecce. Capo, buonasera, qui Roberto. Ancora per te il microfono. K, sono in compagnia dell'amico Antonio Bombolo che adesso ti passo. Avanti, Bombolo. K, salutone l'amico di Lecce, compi la Sardegna Sassari. Con Antonio bomba la Sassari, avanti. K positivo, arrivi fortissimo, K, anche tu non sei male qua, un buon po', vai bene ma non sei male, 8-9, così, a volte anche un po' di meno, comunque tu la cosa è tutta Roger. K, saluto Antonio, provincia di Lecce, avanti Gianni, ti ha salutato l'amico. K, l'amico di Lecce, dai, 7351 anche a te, dai, buona serata, a te ti occorre a... Se mi davi un controllino per sapere come arrivo lì a Lecce. Io sono coricato, per quello che nasale. Già, forse c'è troppo ingresso. K, grazie, buona serata, avanti. K, forse ti danno troppo ingresso. Non c'è ingresso. Qui ho fatto vicinanza, ma è lontana, va benissimo. Attenzione, buonasera. Buonasera a lei, buonasera, qui 930 Radio 5, chi è? Roger, Daniele dalla provincia di Matera, buonasera. Papa Daniele, ti saluto e ti supercordializzo. Qua sei quasi a fondo scala in questo smitter. Avanti Gianni, io qua da Sassari, Sardegna, avanti. K, amico di Matera, ben sentito e cordializza la stazione doppio Ruzzi qui supercordializza. 7351, avanti di nuovo. Sì, Roger K, buonasera a tutti, stasera, 9.30 per voi. In provincia di Matera, ok, 9.30. Daniele, stazione il professore dalla provincia di Matera, vi cordializza. Capo professore, mi hai sentito, dai, ma non ti avevo mai ascoltato, mi sembra che non ci siamo mai collegati. Io sono Gianni doppio Runo, avanti. Allora, che c'è un casino infernale qua di propagazione, ok, Sassari. Buona serata a tutti, buona questione, buon divertimento, alle prossime. Papa, salutoni da parte mia, l'amico di Matera, Salutoni 7351 da Antonio da Sassari, avanti. Ok, Antonio da Sassari, dai, 7351 pure per te, alla prossima, dai, buona serata, K. Avanti già. Ehi, ci sentiamo, dai, grazie per il questione, ciao l'amico di Matera. Tanto fa chiamata. Non ho capito. A fare chiamata. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna, la città di Sassari fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Brecco, brecco. U59. Buonasera. Buonasera, buonasera Natali. Buonasera, chi è l'amico? Avanti. Avanti Natali. Ciao, buonasera a tutti e due, là. Sto andando a coricarmi. Vi saluto e passo in quel retti. Ciao, buonanotte, Natali, cosa ti ho su? La dinallata? No, non mi sento bene. Ma anche lo sto dicendo, non sai come ti soffri. Cerchiamo di sorridere alla vita, Natali, a tutti. Dai, se vuoi restare, resta, che ti dimentichi un po'. No, non ne ho voglia, dai, la verità. Infatti, ho acceso adesso che mi stavo facendo l'insulina, quella lenca. Ma che vado in bagno un attimino. Capito, si accende tutto. Adesso spengo e me ne vado a coricare. Ci sentiamo alle prossime, là. Saluto a tutti. Ciao Natale, ci sentiamo, buonanotte. Attenzione, attenzione, il canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata e si sintonizza l'ascolto. Brecco, brecco. Brecca, brecca, brecca. Avanti, brecca, brecca. Oh, can you hear me, my friend? So, from South of Italy, South of Italy. Ciao Roberto, ciao, ben sentito. La città di Sassari, nord Sardegna, che ti supercordializza, l'operatore Gianni doppio Rumo, avanti. Subito because there is much problem. Can you switch in? E io non sta niente, tu mi stai facendo avvisare. Station, my friend. Avanti, avanti, copiate Antonio dalla Sardegna, avanti. E beh ragazzi, qui vi ha detto di passare in FM, ciao Gianni, ciao Bombolo. Sì, ciao, buonasera. Non ci passo, non la fuggi. Cerco solo italiani e francesi, che almeno mi arrangio. Sì, sta chiamando in FM. Avanti, avanti, chi è che chiama Antonio? Sono io, sono Bombolo. Ah, avanti, avanti. Ciao Franco. Ciao Gianni. Vuoi far parte degli operatori dei grandi modulatori? Ma qui arrivano pio pio, mi sento malapena. Stavo qua già arrivando bene. Strano, con la Sant'Anna dovresti prendere il bene. Sono accettata sul tetto, sì, sicuramente, ma purtroppo è attaccata alla facciata, già lo sai, là. Ti arrivo! Attenzione, canale 10, isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata e si sintonizza in ascolto, bricolare. Attenzione, binario 10, binario 10, copiate Antonio dalla Sardegna che fa chiamata, brecco! C'è più nessuno. Kappa, kappa! Lo smitter ti sta incollando, no? Oh, fra. Aspetta, qualcuno mi sta chiamando al telefono, scusate. No, ancora già ne ho spazio. 9.30 abbondanti, sì. Kappa, kappa, dai. Kappa che ti copio, vieni avanti. Ma non sei chiaro di radio, mi sta mangiando la radio. Dati una entrata. Hola, tutto. Kappa, kappa, comunque io già ti sento lo stesso, ti sento lo stesso. Sta mangiando un po' la radio, ma ti sento, vieni avanti. Sì, 7. In questo passaggio sei Santiago 7, io come ti arrivo? Kappa, kappa, dai, dipende come gira, dipende. Kappa, qua la cosa è tutta Roger, siamo belli, belli rossi qua, c'è un calore, luia. Kappa, dai, quanti batti c'hai sotto per saperlo? Poca roba. No, non tu, Antonio, la mia. Quanti batti hai detto? Non ho sentito perché ha parlato Antonio sotto. Sì, ho detto, quanti batti stai usando? Kappa, kappa. E ne arrivi da 6 a 7, dai, 6 a 7. Però la radio non è chiara chiara, è un po'... diciamo che la mangia un po'. Kappa, kappa, dai. Anche qua ogni tanto ti abbassi, c'è un pochettino la radio così, però già riusciamo a sentirti lo stesso, Kappa, kappa, dai. Da dove sta parlando? Non mi ricordo adesso dove mi ha detto. L'amico da dove sei? Taranto. L'amico di Taranto, me. Taranto provincia. Ho capito, Antonio, stava chiamando Antonio, però lo sento malapena. Segnale 0101. Qua già arriva. Qua arriva 6-7. Allora, c'è la differenza? Te la sottetto con l'antenna, vedrai che si chiappò. Sicuramente. Però ai nodi, abbassiamo il volume e vado con l'altro, che è un po' meglio, Vado a raffreddare, tu? No, va bene, mi scioglio, no, che drento. Altro che riscaldamento, altro che pellet. Ma tranne in varia. Tu puoi collegare anche l'impianto riscaldamento, mi lo sai. Se pare che trattenti un missile invece che un lineare. Che altri fatti se trattenti, 1000 watt. Sta cambiando caricatore. Comunque c'è propagazione, Sì, no, infatti qualche segnale arriva più forte qua, poco fa ero sui canali alti, i segnali erano, insomma, 7, 8, quindi di conseguenza sicuramente mi ascoltavo meglio di conseguenza, dai. Andava così, dai. Ma non è la possibilità di metterla sul tetto? Ripeto, bisogna approfittare se si apre il tetto un domani per qualche lavoro, perché bisogna togliere tutte le tegole, perché non c'è un'uscita, non c'è una botola. La sposta, la tegola, con la sono tutte legate da sopra, quindi bisogna sciogliarle, sono tutte legate col fil di ferro. Ho Per le sventole più che altro. Molti di quei fili ferri adesso saranno tutti già a marcio, tutti, vorrebbero tutti cambiati. Ma fino adesso il vento non ci ha mai scoperchiato nulla, speriamo bene, dai, facciamo i dovuti scongiuri. Manco un vicino di casa non ha scoperchiato la gas. Ehi, vicino al palazzo giallo, cata, l'ho scoperchiata, ovvio. Sopra sotto gliela metto quel tetto, sotto sopra, dai. Come cavolo l'ha fatto tu? Che ce l'era, come si diceva, qualche spiffero, dove è passato il vento e ha fatto forza, non è possibile. Sì, è entrato dentro, è che le travi invece di essere diciamo murate con un po' di cemento sopra erano a pelo di tetto, quindi il vento le ha sollevate come niente, senza nessuna resistenza, capito? Le travi non erano ancorate alla base diciamo del tetto. Cioè non appoggiate qua? Sì, sì, il tanto della mezzaluna, dai, per diciamo affogate a pelo però. Non c'era niente sopra, almeno non c'è una gaffa, non c'è un tassello, un tiro a fondo, nulla, non c'era niente. Io mi ricordo una volta in via di Sicilia, proprio punto, dove c'è il palazzo di Aruti, un po' più avanti, c'era praticamente diventato sezionato per me. La sezione c'era della casa, tutta la parte di davanti era crollata e si vedevano le travite da un appartamento e là. Che anno era? Forse non ci abitava ancora qua, dai. Io ci sono qua quanto? Meno di 30 anni, dai. Ascolta, che anno era non me lo ricordo, perché quando io parlo delle cose sembra che siano successi lì, poi mi vado a vedervi le date, cose che sono passate 30 anni. Non mi rendo più conto, sembra di parlare di ieri, invece è successo già un po' di anni fa, però non lo so esattamente, però è successo perché ho visto che ha fatto una pioggia, l'ha fatto in quel giorno. E l'acqua l'ha praticamente disintegrata, tutta la faccetta in davanti. Ha fatto cadere sulle macchine, meno male non si è fatto nessuno. Ah, aspetta, perché mi ricordo che questa facciata è stata rifatta tutta a nuovo, perché prima qui addirittura ci attaccavano manifesti anni addietro, no? Affittavano le facciate per questi manifesti, può essere quella? Non sai qual è, c'è presente quello del Vendelmino, ma più avanti c'è la villa di Aruti, praticamente quella che è stata la cancellata e cose, dopo, subito dopo la villa di Aruti c'è quel palazzo. Ma andando verso dove? Andando non verso per andare verso via del Porto Torres, ma per andare dall'altra parte verso via qualche via è via Montello. Sì, sì, via Montello. Quindi il palazzo attaccato a quella villa con i cancelli, quello lì è? Il primo che trovi, la prima schiera, dai. Però non l'ha aperta, solo l'intonaco si è attaccato, così la casa è rimasta i muri portanti, là, ci vede, erano integri. Sì, penso di cavolo, sì, penso di sì, però la parte di davanti è caduta dietro, ecco, come se fosse attaccata da una parte davanti la sezionata. Perché sono in tono che facevano prima, mica era come oggi, il cemento di oggi, era più che altro un calce, quindi no, non durava tantissimo, poi si staccava facilmente dalla pietra. Ebbene, tu, sei rientrato, sì? Sono qua. Hai cambiato caricatore? No, che morussati. Ma arrivi bene lo stesso, sei fortissimo anche così. Non lo uso per parlare fuori, ma basta così adesso. Anche con questo arrivavo tranquillamente, non c'è problema. Poi c'è 9.30 pieno lo stesso anche qua. Quando agganci sale un po' di più. Normale. Qua si nota poco la differenza perché siamo vicini, ma in lontananza già schirreggia, come diceva Claudio. Non era male anche poco fa. Ho fatto un collegamento, non era male, la verità, Niente da dire. Quindi si sente gente sotto quando, quando parlate, quindi ci portiamo sotto le modulazioni di questi che ci, che, di propagazione. Avanti, avanti, che chiama? Attenzione, canale 10, canale 10, l'isola della Sardegna, Italia, fa chiamate, si sintonizza in ascolto, Bricova. Aspetta che guarda nei canali alti se c'è ancora per parlazione. Ah, anche se c'è in Francia, chiaro. No, non è male, dai. Cazzo male, non fai stretta se mi pigi, Maria. Assolutamente no, assolutamente no. Meglio di così si vuole. Che fai conto che se è staccata non saresti arrivato sui 9. Così è più o meno. Guarda, io non mi posso lamentare, non ho niente da dire, io arrivo dappertutto e sparo forte dappertutto. Non ho niente da dire, la verità, eh. E andavi anche, che meglio di quando avevi la bazooka? Nero era. Lo so, ho quell'antenna attaccata con la calamita. Purtroppo. Ma bassona, se io se fossi a me l'avrei messa sul tetto. Ehi, comunque ce ne ho meno di gente, eh. E dove? Sul canale 12, come si chiama? 27555. C'è la Spagna, sta chiamando. Ma io andiamo. Ma è FM? No, in banda laterale. Oh, è a Burotto, per carità. Sì, ma poi si spostano intanto dal canale di chiamata, poi vanno sulla frequenza che ti danno loro e lì li chiami, dai. Volete provare? È una giugana. Lì li sento più forti, eh. Gianni, ci sei? Sì. Sei andato a vedere? Sì, ma era brutto, ma ragione altrove, ma carità. E lì c'è il canale di chiamata, poi ti sposti, però questo è più bene qua dove si sente liscio, quindi l'effetto è, guarda, la banda a ferro, non è che mi piace assai. Ma mi stavo detto cugino. Devi, insomma, devi cercare la frequenza giusta. Vabbè, quello che lo so, ma con Clare per accendere, insomma, non è mai chiara come vedete, boh, io non la sento mai chiara. Oh, io sento bene, non vedo il centro. Oh, a volte si spostano, ogni tanto devi correggere, ma magari dipende anche dal nostro, dall'apparecchio nostro. Anche io se li chiarifico li sento bene, ma non è mai come l'AM è apprezzare, è sempre lo stesso. È che aumenta la potenza, capito? Loro usano la banda laterale perché arrivano più furti. No, non ti No, che già cambia, caspita. Addirittura abbiamo provato con Alghero, in AM non lo sentivo, in banda laterale lo sentivo. Io in FM e Alghero sono riuscito ad andare. Anche l'FM qualcosa in più la dà, eh. No, capisco perché ad Alghero sono un pochettino coperto. Io sfuggivo completamente. Io anche non arrivo proprio. No, io proprio non arrivo proprio. Cioè, quando ho fatto provare la mia 50 un giorno sentivo il beep. E basta, non capivo la modulazione. Sì, beh, già se sentivo il bip così con l'antenna diciamo in terra, io ero in macchina però, anche se stavo usando anche lì una canna da pesca messa in mezzo all'albero. Ti porto l'antenna a pesca? Mi porto la canna, due pezzi di scotch, capito? La leggo lì con una specie di camera d'aria, un ramo, che la punta sporge un po' da questo albero di fico. E poi il cavo lo faccio entrare nel finestrino e modulo così, se no con l'antenna normale non arriva nulla. No, io da Alghero con la furgoneta non arrivo, non so se mi sa neanche la furgoneta, no, non può fare la mia notizia. Ma c'è in quel punto proprio, no, deve essere perché c'è montagnese davanti, c'è il monte che mi copre, non arriva. Però tu avevi l'antenna dove? Sulla capota? È un altro mondo, invece con l'antenna così, con la staffa nella ruota di scorta lì dietro la macchina perdi io penso più del 50% di potenza. Ok, e tu perché non l'hai messa sulla capota? Perché è troppo in alto, quando fai fuori strada tocchi un ramo e fai danno. No, ma la macchina è alta, la macchina già, troppo alta la macchina, capito? È un fuoristrada, quindi tocco dappertutto. Tipo vai alla piazzetta nel tradedutto, anche se la pieghi a zero, già passo a pelo. Io una volta mi sono verificato, sono andato a buttare la spesa, c'è l'antenna sotto la macchina, sono curvato nel parcheggio, e sento tra tra tra tra tra. Ma sono dovuto scendere dalla macchina, smollare e abbassare. Lì c'è gente che entra in garage con le biciclette sul tetto, mi la danno. A me mi ha fregato l'albero, mi viene Umberto, stavo parcheggiando. Era ancora tutto 2001, 2020, che si è agganciato un albero, si può trarre, se andato a vedere mi ha stracciato la cappotta, tutto stracciato, ma era marcia attorno. Era marcia la cappotta attorno, quindi mi raggava da fuori. E non gli avevi messo l'antiluce mai quando hai fatto il buco? Sì, messo in più era una Opel, c'aveva la cartellata, però se c'era un po' di ciacchi con l'antenna. Sai cosa ho fatto? Non mi sono perso l'antenna, sono andato in un negozio e ho comprato, ho visto quei tappi che si mettono al posto dei rubinetti e la bambini quando magari mi finisce l'antenna. Non ho messo uno di quei tappi, ci ho messo il silicone sotto, ci ho messo uno di quei tappi, sopra l'ho comprato tutto il silicone, e non si vede più. E poi ho fatto un altro buco davanti, dove c'era la tapponiera, e l'ho messa lì da me. Sì, anch'io quando c'avevo un ragazzo, una Panda avevo, c'era la capota, arrivavo dappertutto, al Ghero, a Donadina, la coprivo benissimo, Sentino, con quella frusta nera. Una bella antenna era, caricata di brutto, usciva bene, poi un legnarino da 150. Quella è la frusta nera, l'antenna che stavo cercando, perché la volevo mettere nella capota, ma adesso ci ho fatto un pensiero, ed è meglio che sia così. Cambio. Magari che c'ho cambio. Avanti, chi vuole entrare? Passa, tu sei. Troppo basso per essere Massimiliano. Attenzione sul canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, chiama. Chi è avanti? Si è perso. Tutto lì era quello che voleva. Vabbè, comunque, mi sono arrangiato lui. Sì, già riconosco quei tappi, sì. C'ho ancora quell'antenna, mi sembra mi si era aspettato l'attacco, perché essendo rigida quando tocchi un ramo si spezza, si era aspettato l'attacco. Allora gli avevo inserito una specie di molla per renderla più morbida come antenna, meno rigida. Però l'ho allungata, quindi di conseguenza era un po' fuori, dovevi accordarla un po' con l'accordatore. Attenzione Nord Italia, se copiate il Sud Italy. Attenzione Sud Italia, se ascolti la città di Sassari, Nord Sardegna. Avanti Nord Italia, copiate Antonio da Sassari, copia, avanti. Vedessimo che camionista, perché c'era l'apparato col bip. Sì. Io ho fatto un attimino di bianco, ci sentiamo dopo, ok? Attenzione, ti chiamano la Sardegna, va. Quanto ti arriva questo gatto, Au? Abbiamo qua. E qui uno. Au? Adesso sei un po' compresa di radio. Lo so, ma è avvicinata, lo fai, in lontanata non lo fai. Sei quasi 9.40. Avanti. Positivo, dai, non so se mi copiate, sto facendo dei controlli. Comunque, piacere, 73, Daniele Incubo in Taranto. Lei ho capito, Incubo da Taranto, confermi? Capo, l'amico di Taranto, io ti ascolto al 100%, ti ascolto molto bene, dai, non so come mi stai ascoltando tu, di a Taranto. è la stazione del doppio lungo della città di Sassari, avanti. Positivo, positivo. Dai, il segnale è molto forte, la radio un pochetto bassa. Segnale 9 più radio 2, non riesco a tirarti fuori. Cappa, guarda si è aumentata la radio. Sì, positivo, positivo. Adesso si è andato sul 5. Ah, poi ce l'avevo abbassata, me l'avevo fatta abbassare, ma adesso la lascio così, non la tocco più. Ma qua fra. No, negativo, dai, non è negativo, non ti riesco più a copiare, perché c'è un po' di QRM e ti riesce a coprire. Anche qua si è abbassato parecchio, amico di Taranto, faccio fatica a ascoltarlo. Ehi, saluto di Taranto, dai, ci sentiamo, grazie per il questione, avanti. Sì, a un certo punto è salito quasi a 3, tu l'avrai avuto 7-8 sicuramente. Sì, sicuramente. Sassari c'era tanto, Lecce, tutto il paese. Sud Italia, sì. L'altro giorno ho fatto un paio di collegamenti con chi? Con, vabbè, c'era la Germania, Francia, Spagna, il Portogallo. Andavano forti però, con segnaloni. C'era uno dalla Germania che è una cosa vicinata in FM, era sui 9.20, guarda, 9.20, ma costante il segnale. Sicuramente, però era chiarissimo, guarda, di una chiarezza micidiale. Perché lontana, sicuramente, qua siamo molto vicini. Sembrava neanche più forte di prima, non so quanti ne stai guidando. Però beh, il fischio l'ha sentito, perché ho fischiato e mi ha risposto. Sì, sì, sicuramente, guarda. È che ogni tanto, porca miseria, se ne scende un elemento. Qui faccio un fretta, cioè è tipo un ombrellone, la tolgo fuori da quel tubo, la faccio scendere giù al sistema e la rimetto in 5 secondi. È casino che se succede sul tetto che collassa, è un macello, risalire su, quindi mettendola su bisognerebbe o la incolli. Certo, la incolli devi mettere le fascette. No, fascette è meglio non mettere, perché metallo non ce ne vuole lungo l'antenna. Puoi vulcanizzarla come il vulcan, oppure incollarla, però perdi poi la possibilità di richiuderla, casino, dai. Non è un'antenna seria, sì, è una cosa così. Chi l'ha detto? Io nella mia c'ho fascette, la non ci sono le fascette. Fascette in acciaio? Io ho comprate con vulcanizzata, e poi ci sono le fascette. Per stringere gli elementi ci sono delle fascette. E addirittura dove si era deteriorata, ne hanno messo 3 in acciaio, quelle grosse. Non lo so, io so che mi hanno detto che metallo non ce ne vuole, dalla bobina in su niente metallo, quindi non ne ho messo per quello. Però non costa nulla provare, vedere un po' se cambia qualcosa, se peggiora o se non cambia nulla. Ah, questa è la casa che abbiamo messo in. E vabbè, quella è nata così, originale, capito? Questa è fatta con cavi coassiali, cavi elettrici, roba così. Guarda che tutta una prassi è stata di mettere la canna, perché se tu proprio un metodo di tenere il liquido il filo, cosa ti penso di ti poni da due parti, ci metti il faro con due piedi, non so però, non so, e lo tieni via, te ne sapete che male, però lì se lo puoi proteggere. Sì, sì, io parlo solamente, metto un cavo, diciamo, teso che va dal mio tetto a quello all'altro condominio che c'è di fronte, e l'antenna la faccio scendere, diciamo, in mezzo tra i due palazzi, la metti in tira e poi li colleghi il PL, la porti in casa, sei a posto, riaperta, la isoli dall'alto, da sulla isoli, metti qualcosa di nylon. Sì, infatti la casa invece non è dei migliori materiali, se scende così non dovrebbe scendere la cava da fresca. Io ne ho una così, dopo che lancio, come si ne impara? Cazzo, dico c'è tocca a bucciarla, tirarla a torna, sai che se l'ultimo cimino sempre scende. Quando è così faccio a morire un po' di silicone, la fine, e poi cazzo di calizzata che si muove. Puoi fare anche così, vedi, la smonti tutta quanta, gli metti col dito proprio a zero, tipo una pellicola, gli fai un microfilm di silicone, le fai asciugare e poi la reinserisci un elemento dentro l'altro. Così penso che te tenga un po' di più, perché il problema sai cos'è? È la dilatazione dal caldo al freddo. Quando c'è freddo si allenta sicuramente e quindi collassa l'elemento, se ne entra uno dentro l'altro. Poi la plastica è così, la plastica pesi da quello che si come scata, si allarga, si parte del forno. Infatti io non so se anche qui abbia fatto bene a prendere quell'antenna. Adesso così ne ferma. No, secondo me se le piazzi bene già tengono, dai. Devi cercare di collegarla magari nei punti giusti, senza sollecitare le giunzioni. Cercare di inserirle bene una dentro l'altra, senza metterle in punta, capito? O a metà. Come è successo a me, io me l'hanno detto a te, ma quello si aspettava, che non l'hanno fatta bene. Poi adesso io ho una volta che ho aiutato, perché praticamente le persone che mi hanno dato dietro dalla fine del caso. Quindi cosa ho fatto? Ho cercato l'antenna a prendere dietro, gli ho messo pure la scena, l'antenna è stretta un po', solo in 10 minuti. E sta andando, vedi? E sta andando, sì. E in realtà c'è la stessa fascetta, in elemento c'è la sua fascetta, chi l'ha detto che ci fosse. E alla fine c'è una chiave a tubola che viene. E puntare perché come è fatto? Allora, praticamente tu devi scendere il filo e poi avvitare questo coso con la chiave a tubola per il filo, e poi tiri l'antenna, no? Una volta che tiri l'antenna, tiri l'antenna la posizione. Beh, noi abbiamo visto qualche video, dai. Poi vabbè, tu l'hai vista dal vivo, quindi sai com'è fatta. Questa è un'imitazione praticamente, fatta in maniera più economica. E io fra l'ho vista e non l'ho vista, perché stavo malissimo, quello seduto, non ce la facevo manco a muovere, mi dovevo operare, non potevo manco a muovere con la gamba. E quindi la vedevo e non la vedevo. Stavo facendo tutto, prendendo insomma con le persone che fanno aiutare. Però c'è stato quel piccolo errore e c'è stato così come era meglio. Perché non vuole messa troppo in tira all'interno, capito? Un minimo di gioco devi lasciarglielo proprio per essendo un metallo all'interno, il rame subisce dilatazioni e insomma bisogna dargli un po' di gioco. Tanto non cambia niente, non è che se allunghi quei 2 centimetri esce meglio, non gli fa nulla. Io l'altro giorno stavo uscendo con un elemento collassato, quindi figurati, non me ne sono neanche accorto. Quindi c'è scritto poi, mi chiama nel manuale, di non metterla molto in tira. Sì, per fare un gioco, perché dopo quando viene l'antenna non si deve spostare. E anche quello c'è, quando essendo un'antenna anche molto flessibile, è logico, un minimo di allungamento ce l'ha all'interno. Vabbè, ma sa che le stazioni, che già è ora di andarsene a mamma, dai. Grazie, ti saluto, dai, grazie per l'impressione, ci sentiamo, salutami a tutti, io sto qui dentro, ciao, ciao. Mi dici che ora hai per cortesia? Sono le 10. Anche per me, allora, dai, è arrivata, grazie a voi per la compagnia, le 4 chiacchiere, un abbraccio e alle prossimine, dai, anch'io faccio pure te, ciao, ciao, alla prossima. Ciao, bella, buon trabbato, grazie.